Il punto di Stefano Folli. Quella del Lazio sembra una farsa che ormai è arrivata all'ultimo atto. La presidente Polverini può solo rassegnare le dimissioni e provocare di conseguenza lo scioglimento del Consiglio. Avrebbe dovuto farlo la settimana scorsa, ma da stamane ogni momento è buono per compiere un estremo gesto di dignità. Del resto lo stato d'animo del Presidente del Consiglio è chiaro e abbiamo sentito anche la voce del Presidente dei Vescovi, Bagnasco. In più ci sono le dimissioni dei consiglieri d'opposizione e segni di sgretolamento nella stessa maggioranza, a cominciare da quell'azzeramento chiesto dal sindaco Alemanno, il quale si è reso conto, ma in grave ritardo, che il veleno dello scandalo laziale travolgerà tutto, in primo luogo la sua fragile giunta comunale. Insomma, il quadro è definitivamente compromesso ed è tempo che sul disastro cali la tela. Invocare l'autonomia regionale a questo punto non è solo patetico, è delittuoso, perché il patrimonio dell'autonomia è stato distrutto da questo pessimo film.